Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Berlusconi, con la sinistra un'invasione di stranieri e poi le intercettazioni sono una barbarie. Inchiesta sul riciclaggio, si difende il senatore mai avuto rapporti con l'Andrangheta. Google condannata per il video con maltrattamenti a disabili, l'azienda, faremo appello. Dopo oltre 80 giorni di sciopero della fame, muore in carcere uno storico dissidente cubano. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. Prima di parlare di politica, delle parole di Silvio Berlusconi, delle reazioni dell'opposizione, parliamo di Sandro Pertini. Oggi, 20 anni fa, quello che è considerato il presidente più amato dagli italiani moriva. Il ricordo è ancora vivissimo. In queste ore, nelle quali molto si discute di corruzione e di capacità di gestione della cosa pubblica, vogliamo farlo con le parole del suo discorso di fine anno del 1983, il penultimo da presidente della Repubblica, raccontando dei suoi quotidiani in incontri con le scolaresche, parlava così. I più arditi, quelli che immediatamente, senza nessuna soggezione, vengono avanti e mi fanno le prime domande, sono proprio i ragazzini di 9 e 10 anni. Bene, signori, amici miei che mi ascoltate, le domande che io mi sento fare, soprattutto da questi giovani, sono queste. Il nostro domani, l'avvenire, sarà turbato dalla guerra. Dopo che avremo studiato, avremo un'occupazione. E poi un'altra domanda mi fanno, gli anziani mi ascoltino. Dice: perché, Presidente, gli anziani si abbandonano a tanti scandali? Perché tanta corruzione? È un ammonimento che sorge dai giovani, un rimprovero che sorge dai giovani verso questa minoranza, gli anziani, che danno esempio di corruzione, di disonestà. Guai a chi dà scandalo ai giovani. Io li amo immensamente, questi giovani. Sono l'avvenire della patria, peraltro. E dopo questo ricordo, dunque, apriamo il nostro giornale e passiamo a parlare della politica, della campagna elettorale che entra decisamente nel vivo con le parole oggi del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Sprona quelli che definisce paladini dell'amore e della libertà, si scaglia contro le intercettazioni, attacca a tutto campo la sinistra, siamo in piena campagna elettorale, Berlusconi non si risparmia, parla presentando la nuova iniziativa dei promotori della libertà, una nuova forma di partecipazione degli iscritti al PDL per sostenere l'azione di un governo del bene, delle riforme e delle emergenze, dice il Premier, contro una sinistra che dice solo di no, una sinistra del pessimismo che vuole l'invasione degli stranieri. La sinistra non vuole aprire, vuole spalancare le porte agli stranieri, ai cittadini stranieri, e quindi non vuole la immigrazione degli stranieri da noi per le nostre necessità, per le necessità della nostra economia, ma vuole semplicemente l'invasione degli stranieri. E poi sul sistema delle intercettazioni, dice Berlusconi, viviamo in uno stato di polizia. Siamo tutti sottoposti al controllo, è un sistema barbaro, ma lo vediamo in questi giorni, che tutte le cose che noi diciamo al telefono riservatamente con un'altra persona appaiono sui giornali e portino delle secchiate di fango che poi alla fine si risolveranno in molti casi solo in secchiate di fango. Infine Berlusconi, che è accompagnato dal ministro Brambilla e dai coordinatori Verdini e Bondi, smentisce scontentezze interne al PDL. Nessun contrasto, sono solo fantasie dei giornali. Alessandra Schepisi, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sul fronte dell'opposizione sentiamo che cosa accade in diretta da Montecitorio. Vincenzo Miglietta, Vincenzo. Sì, buongiorno. Opposizione, ma non solo nelle reazioni a Berlusconi. Il commento per ora più discordante con le parole del Premier è quello che arriva da Fini sull'immigrazione. La mia opinione, dice il Presidente della Camera, non coincide al 100% con quella del Presidente del Consiglio, e questo è notorio. Un approccio alla questione immigrazione collegato alla campagna elettorale, prosegue Fini, è fuorviante e non porta a risolvere la situazione. Altro tema, la questione corruzione. A parlare dal centro-sinistra il leader del Partito Democratico Bersani. Il governo è schizofrenico, dice Bersani, perché promette norme anticorruzione mentre in Parlamento ci sono sue leggi che favoriscono invece questo fenomeno, a partire dal processo breve, e questo rende poco credibile il disegno di legge preannunciato. Il capitolo intercettazioni, infine, per Bersani è necessario colpire gli abusi senza impedire ai magistrati di poter indagare. Secondo l'Italia dei Valori, il governo vuole mettere il bavaglio agli inquirenti. E da Roma è tutto. Grazie dunque anche a Vincenzo Miglietta e al tema della corruzione e a quello del voto era dedicato il nostro sondaggio di oggi. Per Giulia Bongiorno il candidato trae origine dalla toga candida con la quale chi concorreva alle cariche doveva presentarsi in pubblico. Candidato dunque perché senza macchia. Già, ma come garantire liste pulite, candidature specchiate in un paese in cui condannati a vario titolo siedono in Parlamento? Per il 78% dei nostri ascoltatori ci vorrebbe una legge che stabilisca i paletti di chi è considerato presentabile e chi no. Poi, se questa legge debba escludere gli indagati, o i condannati in vario grado, o i condannati in via definitiva, questo non è dato sapere. Per il magistrato antimafia Alberto Cisterna l'ipotesi di una legge ha un problema. È del tutto evidente che il problema della presunzione di innocenza, che poi non è un problema, è la garanzia della presunzione di innocenza, crea un problema una legge, perché è una legge che in qualche modo deve ancorare l'ineleggibilità o l'incandidabilità ha un presupposto, qual è quello del rinvio a giudizio, della condanna di primo grado, che per definizione è un presupposto instabile, per così dire insicuro, nel senso che può essere vanificato. Bianco o Nero torna domattina alle 8:30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E adesso ci spostiamo sul Lambro per il disastro ambientale che si sta verificando. Migliaia di tonnellate di idrocarburi, lo ricordiamo, si sono riversate nel fiume Lombardo e una parte ormai ha raggiunto il Po. Ci colleghiamo in diretta con Irene Privitera. Irene, che cosa succede? Sì, buongiorno. La macchia di olio e gasolio continua a spostarsi lungo il corso del fiume Lambro. Dal Basso Lodigiano questa mattina si è ora spostata, ha raggiunto il Po nel tratto piacentino. È stata infatti emanata dal prefetto di Piacenza, Luigi Viana, un'ordinanza che vieta il prelievo dell'acqua nei comuni rivieraschi. Quindi i vigili del fuoco non sono riusciti a fermare la macchia di idrocarburi nonostante la barriera di galleggianti che era stata posta nel territorio di Sant'Angelo Lodigiano. Si tratta di 600.000 litri di idrocarburi provenienti da 3 cisterne della ditta Lombarda Petroli con sede a Villa Santa, nella provincia di Monza e Brianza, e sono state aperte queste cisterne nella notte fra lunedì e martedì. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, si tratta di un atto doloso. Gli inquirenti hanno appunto pochi dubbi e i tecnici di Legambiente parlano per l'accaduto di disastro ambientale. Per ora è tutto, vi restituisco la linea. Grazie dunque a Irene Privitera, che ritroveremo tra poco dopo le 13:30 in Italia in controluce. E adesso vi proponiamo un'intervista. Quello nel ruolo di ambasciatore in Afghanistan è stato un naturale avvicendamento. Il rappresentante europeo a Kabul, Ettore Sequi, che terminerà il suo mandato a fine marzo, chiude così le polemiche sulla sua sostituzione decisa lunedì dall'alto rappresentante europeo Catherine Ashton, che ha deciso di inviare al suo posto il lituano Vygaudas Uzakas, preferito da Gran Bretagna e Stati Uniti. Sentiamo dunque l'intervista a Sequi di Sergio Nava. Lascerono a Kabul con una profonda consapevolezza che la stabilità dell'Afghanistan una stabilità che si conquista non solo sotto il profilo militare, ma anche sotto il profilo dello sviluppo economico e dello sviluppo delle istituzioni, il rafforzamento soprattutto a livello locale delle istituzioni. L'Europa, il ruolo dell'Europa in Afghanistan, qual è stato secondo lei il maggior successo che ha avuto l'Europa, che poi insomma tra mille problemi cerca di avere una voce comune in politica estera, e qual è anche un po' forse il suo rimpianto? Io direi che l'Europa ha avuto e sta avendo un ruolo molto importante, probabilmente non completamente visibile. È importante perché offre un aiuto economico molto generoso. Dal 2002 a oggi sono stati spesi circa 8 miliardi di euro per progetti ma anche di successo, come per esempio nel settore della sanità. L'Europa in modo molto discreto è sempre stato un partner per gli afghani credibile, rassicurante, a cui loro si sono rivolti anche spesso per avere dei consigli. Il rimpianto, ma io devo dire non ho rimpianti. Ambasciatore, lei sarebbe rimasto a Kabul? Io ovviamente sono a disposizione sia del mio paese che dell'Europa, quindi questo è un po' il mio spirito. Sono pronto a fare ciò che mi si domanda di fare. Quello che va detto è che effettivamente c'è una politica soprattutto in Afghanistan che riguarda tutte le istituzioni internazionali, dalla UE alle Nazioni Unite, alla stessa NATO, di rotazione degli incarichi. Quindi direi che il mio periodo a Kabul è stato molto lungo, è stato persino direi un record. Lei ha sentito dietro di sé comunque il peso dell'Italia nel tentativo, se non altro, di ricandidarla? Assolutamente, devo dire che questo sostegno sostegno c'è stato, è stato molto forte, è stato molto percepito da tutti e devo dire mi ha molto incoraggiato. Lo sa, in questo periodo insomma si parla anche del fatto che la nomina del suo successore in qualche modo riflette una volontà più atlantica, se vogliamo, di avere un uomo di riferimento a Kabul. Nel corso di questo periodo i rapporti tra Unione Europea, NATO, Nazioni Unite sono stati già molto forti, così come lo sono stati con gli americani. Ma io credo che, diciamo, questo naturale avvicendamento che esiste in le istituzioni internazionali qui operanti sia, direi, assolutamente fisiologico e non vedo una, come dire, preponderanza del genere di cui si parlava, nel senso che già prima i rapporti europei, i rapporti, diciamo, tra l'Europa e gli altri attori, compresi gli americani, erano assolutamente ottimi, di grandissima collaborazione, direi molto proficua collaborazione, quindi non vedo questo rischio, francamente. Ed era il rappresentante europeo a Kabul, Ettore Sequi, intervistato da Sergio Nava. In chiusura di questa prima parte parliamo di cinema, perché dovrebbe uscire il 5 marzo uno dei film più attesi del 2010, ma si rischia il boicottaggio da parte dei gestori dei cinema. Sentiamo cosa sta succedendo. Alice! Alice! Quella? Alice? Alice è tornata nel paese delle meraviglie. Il film è quello di Tim Burton, Alice in Wonderland, ma nelle sale del circuito Odeon e UCI in Italia, Gran Bretagna e Irlanda potrebbe non arrivare. Le trattative sono in corso, ma i gestori dei cinema non approvano la decisione unilaterale di Disney di far uscire il film in home video non 17 settimane dopo il debutto nella sala cinematografica, come d'abitudine, ma 12 settimane dopo, accorciando la cosiddetta window. Sei in ritardo per il tempo! Secondo Disney, dopo 8 settimane di permanenza in sala, un film ha perso di interesse, ma i gestori non concordano. Paolo Protti, presidente dell'ANEC. Se lo fanno loro e passa così, poi a ricasco altre aziende di distribuzione possono fare la stessa cosa. La sala non è quella di una volta, però è fondamentale perché fornisce un risultato certo, sia dal punto di vista economico sia come vetrina, per poi sviluppare tutte le operazioni successive di vendite sia in un video, sia nel pay per view, sia nelle free view. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:16:42 nella prima parte del giornale radio. Abbiamo parlato di politica con le parole del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e le reazioni dell'opposizione e anche la reazione di Gianfranco Fini. Abbiamo parlato della situazione sull'Ambro, della quale torneremo a trattare in Italia in controluce. Abbiamo ascoltato una lunga intervista al rappresentante europeo in Afghanistan, Ettore Sequi, che a marzo lascerà l'incarico. Adesso ci occupiamo di riciclare. Con l'inchiesta che ha coinvolto tra gli altri anche il fondatore di Fastweb Silvio Scaglia, come sapete, oggi si è parlato invece molto delle vicende del senatore coinvolto Di Girolamo. Ci colleghiamo in diretta con Maria Chiara Grandis da Roma, che ha seguito la conferenza stampa di Di Girolamo, tra le altre cose. Maria Chiara. Sì, buongiorno. Partiamo innanzitutto dal fatto che sono in corso i primi interrogatori di garanzia in carcere di Regina Coeli dopo la presunta maxi truffa da circa 2 miliardi di euro che, come dicevate, coinvolge Fastweb e Telecom Italia Sparkle. Le novità sull'inchiesta oggi arrivano anche dalla Svizzera, perché la telefonica Swisscom ha diffuso un comunicato in cui afferma di cercare una risoluzione rapida per le accuse rivolte alla controllata italiana Fastweb. Per le due società italiane, per cui è stato anche chiesto il commissariamento, si parla di 400 milioni di IVA evasi. La Procura di Roma ha emesso 56 ordinanze d'arresto, fra cui quella per l'amministratore delegato di Fastweb Stefano Parisi, Riccardo Ruggero, presidente del CDA di Telecom Sparkle, e anche quella per il fondatore di Fastweb Silvio Scaglia. Al momento si trova però all'estero. Stessa richiesta, dicevamo, per il senatore del Popolo della Libertà Nicola Di Girolamo. L'accusa è riciclaggio internazionale, ma a suo carico c'è anche la violazione della legge elettorale con aggravante mafiosa. Avrebbe infatti ottenuto voti all'estero con l'aiuto dei clan calabresi. Con l'Andrangheta non ho mai avuto rapporti, ha detto Di Girolamo in una conferenza stampa. Poi ha specificato di voler replicare punto per punto solo quando sarà in possesso degli atti. Allora sentiamo le sue parole. Un effetto personale devastante, perché ritengo che sia qualsiasi persona sottoposta a un massacro del genere, da un punto di vista mediatico, non credo che possa esserne felice. Lei diceva di non aver visto ancora gli atti, vuole aspettare quelli prima di... L'indicazione che tutto ciò che mi è stato contestato l'ho imparato sino a questo momento dalle dichiarazioni che mi avete fatto voi telefonicamente, alcuni dei suoi colleghi, e i giornali che sono usciti questa mattina. non ho avuto ancora l'opportunità di avere alcun tipo di visione degli atti e quindi a fronte di quello mi riservo, una volta visti gli atti, di potervi dare tutte le indicazioni del caso. E proprio per chiarire la sua posizione il senatore Di Girolamo parlerà fra circa mezz'ora di fronte alla giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato. E da Roma è tutto, linea a voi. E grazie dunque a Maria Chiara Grandis. Sul ruolo dell''ndrangheta sentiamo il commento di Roberto Galullo. Il peccato mortale della politica e della società italiana è quello di considerare l''ndrangheta come un fiume carsico che scorre sotterraneo e riemerge con forza in superficie. Nulla di più sbagliato. Il pregio delle inchieste delle direzioni distrettuali antimafia di Roma e Milano, che stanno indagando su riciclaggio, corruzione e compravendita di voti in Germania a Trezzano sul Naviglio, a favore di un senatore della Repubblica e di amministratori comunali lombardi, è invece quello di svelare ancora una volta che l''ndrangheta non è un fiume carsico, ma una goccia cinese che, come nell'antico metodo di tortura asiatico, cade inesorabilmente sulla testa del malcapitato fino alla rottura del cranio. La forza corruttrice delle cosche calabresi in tutto il mondo è semplice: il denaro, che tutto può comprare, tutto può vendere e che tutto può corrompere. Se l'Italia non se ne accorge, o se ne accorge quando l''ndrangheta viene sbattuta in prima pagina dai giornali o in apertura dai TG, dai GR, allora vuol dire che gli anticorpi politici e sociali della legalità, dell'onestà e della pulizia morale sono le battute finali e che la goccia cinese, anzi, la goccia della mafia calabrese, sta ormai scavando il foro nella testa della Repubblica e della democrazia italiana. Roberto Galullo, GR24, Il Sole 24 Ore. Intanto, a cavallo tra cronaca e finanza c'è oggi anche la deposizione dell'ex guida della Banca Popolare Italiana Giampiero Fiorani nell'ambito delle inchieste sulle scalate bancarie. Dal Palazzo di Giustizia di Milano la nostra Raffaella Calandra. Raffaella. Sì, la finanza, la politica e gli organismi di vigilanza, gli intrecci e i rapporti tra queste sfere nella retroscena delle scalate bancarie del 2005, come dicevate, sono stati il cuore di questa seconda deposizione in aula di Giampiero Fiorani al processo Antonveneta. Il senatore Grillo mi disse che secondo il presidente Consob Cardia l'operazione era regolare, altrimenti ci avrebbe stoppati, ha raccontato l'ex presidente della banca Lodigiana, che è ritornato a parlare anche dei suoi incontri, anche informali, col numero uno dell'autority di vigilanza sul mercato, rispondendo anche alle contestazioni dell'avvocato Consob. Altro capitolo, i cosiddetti furbetti del quartierino sapevano di essere intercettati? A un certo punto si diffuse questo allarme, racconta Fiorani, sulla base di input che arrivava dal figlio di un generale della Guardia di Finanza, dall'allora sottosegretario alla giustizia Valentino attraverso un avvocato di Ricucci e dallo stesso governatore della Banca d'Italia, Fazio, l'avrebbe saputo, sempre secondo il racconto di Fiorani, dall'onorevole Cirino Pomicino, che a sua volta diceva di essere in contatto con fonti dei servizi segreti. Ora è iniziato il controesame proprio dei difensori di Fazio, che stanno contestando all'ex numero uno della BPI quelle che considerano le sue contraddizioni rese nei diversi interrogatori. Staremo a vedere come finirà questa giornata. Simone. Grazie dunque a Raffaella Calandra. Noi restiamo in tribunale a Milano perché il tribunale di Milano ha condannato a 6 mesi di reclusione 3 dirigenti di Google. I manager erano accusati di violazione della privacy per non aver impedito nel 2006 la pubblicazione di un video che mostrava un minore affetto da sindrome di Down insultato e picchiato da 4 studenti di un istituto tecnico di Torino. Google parla di sentenza sorprendente che mette in discussione principi fondamentali di libertà. Enrico Pagliarini ha sentito poco fa Marco Pancini, responsabile relazioni istituzionali in Italia per il motore di ricerca. Siamo molto dispiaciuti perché 3 nostri dipendenti sono stati condannati da un giudice qua a Milano per un atto che loro non hanno commesso, per un atto illecito commesso da terzi. C'è un principio molto chiaro e molto forte: gli internet service provider sono responsabili per i contenuti illeciti soltanto nella misura in cui, una volta che gli sono stati segnalati, non li hanno rimossi. Quello che invece noi abbiamo fatto proprio in questo caso, rimuovendo il video. Lo scenario che apre questa decisione inquietante è per la libertà di espressione in rete, per internet come lo conosciamo, e per questa ragione e anche e soprattutto per i nostri 3 dipendenti abbiamo deciso che faremo appello. Se passasse questo principio, potreste pensare di chiudere le vostre attività in Italia? È difficile prevedere come andrà, noi siamo molto fiduciosi sull'appello, siamo molto fiduciosi che questi principi comunque passino. Più in generale bisogna dire che in questo framework di regole, cioè se l'internet service provider, cioè colui che presta i servizi online, è responsabile per quello che riguarda la privacy dei contenuti che vengono caricati dagli utenti e quindi potenzialmente li deve rivedere tutti, è impossibile prestare qualsiasi servizio internet di quelli che noi utilizziamo tutti i giorni, da Facebook a YouTube, da Google a qualsiasi altro servizio vi possa venire in mente. E ora ci spostiamo a Cuba. Sono la madre di Orlando Zapata Tamayo. Mi hijo ha sido encarcelado el 6 de diciembre de 2002. Avete sentito l'inizio di questa voce abbastanza chiaramente, insomma, è la voce della madre, appunto, Orlando Zapata Tamayo, un dissidente cubano in carcere dal 2002, è morto in seguito ad un prolungato sciopero della fame che, come già lo sentivate, la madre lo riferiva, è iniziato il 6 di dicembre, lo hanno reso noto fonti dell'opposizione cubana. Il decesso è avvenuto in un carcere dell'Havana, dove Zapata Tamayo era recluso con l'accusa di aver mancato di rispetto alle autorità. Andiamo allo sport, alle Olimpiadi invernali. Il tempo stringe, le medaglie si assegnano e l'Italia sta ancora a guardare. Simoncelli, Mölg e Ploner affondati alla prima manche. Blardone, quarto nella prima prova, conclude undicesimo con 1,52 di ritardo sullo svizzero Janka, medaglia d'oro. Il gigante degli azzurri è tutto qui. Sono avvilito, commenta mesto il presidente del CONI, Gianni Petrucci, e ne ha ben donde, perché ora restano solo le donne del gigante per salvare l'onore dello sci alpino italiano. Oggi saranno in pista Denise Carbon, Manuela Mölg, Nicole Jus e la 19enne Federica Brignone. Nel pattinaggio, intanto, Carolina Kostner non ha fatto sognare. È settima dopo il programma corto, a gran distanza dalla coreana Yuna Kim, favorita per la vittoria. Carolina comunque è serena in attesa del programma lungo di dopodomani. Adesso abbiamo fatto il primo passo e posso andare ancora meglio. Nel fondo, oggi di nuovo impegnati Checchi, Dicenta, Piller-Kotrer e Zorzi. C'è la 4x10 km e in palio è il titolo olimpico conquistato a Torino. Laura Bettini, GR24, Il Sole 24 Ore. In chiusura parliamo di cultura. Milano dedica a Gillo Dorfles, alla soglia dei suoi primi 100 anni, una grande retrospettiva sulla sua attività di pittore, da domani fino al 23 maggio a Palazzo Reale. Dopo una laurea in medicina e una specializzazione in psichiatria, Dorfles è stato docente di estetica all'Università di Milano Cagliari e Trieste, autore di una serie di successi editoriali, tra cui Le oscillazioni del gusto del 1970. Come pittore esordì negli anni 30, alla soglia dei suoi 100 anni, appunto, sentiamolo intervistato da Adriana Fracchia. Naturalmente sono molto soddisfatto che abbiano avuto questa iniziativa, tanto più che è la prima volta che c'è una mostra così grande dopo quella che avevo fatta al PAC ormai già una decina d'anni fa. Come si giudica lei come pittore? Io non posso giudicarmi, proprio perché essendo anche critico non riesco a fare una critica di me stesso. Spero che i critici mi giudichino positivamente. Leggevo una sua intervista in cui lei dice: ho sempre tenuto distinte le mie due personalità. Sì, perché appunto dico, una cosa è criticare gli altri, una cosa è dipingere e quindi rischiare di essere criticati a propria volta. Ecco, ma lei dice che in Italia non si perdonano quelli che hanno questa doppia personalità. Sì, in Italia uno c'ha un'etichetta, l'etichetta del filosofo, l'etichetta del chirurgo, e non può permettersi il lusso di fare un'altra cosa, perché sennò dicono che è un pittore della domenica, quindi è difficile che una persona possa essere riconosciuta in due settori diversi. Questa è una particolarità italiana. Se uno viene accettato per una determinata attività, tutte le altre sono, diciamo, degradate. Lei è sicuramente una persona di grande eclettismo. Beh, naturalmente fare troppe cose è pericoloso. Forse era meglio se ne facevo una sola molto bene che tante cose mediocremente. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Biacchesi e con in regia Pietro Lacorte. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.